Ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere no. Allora, buongiorno a tutti e tutte, buon lunedì 24 novembre, ore 12:26, cominciamo questa nuova puntata di Corrispondenze Operaie e molto rapidamente introduciamo il primo collegamento di oggi. È un compagno che abbiamo già sentito due settimane fa, è un compagno del coordinamento lavoratori e lavoratrici livornesi. L'abbiamo sentito in precedenza perché volevamo analizzare un po' cosa stava accadendo nella città di Livorno, diciamo questa convergenza di varie vertenze grazie al lavoro appunto di questo coordinamento e grazie anche in parte a diciamo l'esplosione del problema della TRV che ha catalizzato un po' di forze e mobilitazioni nella città di Livorno. Dicevamo che c'era stato un corteo, ci sarebbe stato un corteo sabato 15, ora quindi diciamo dopo quasi una decina di giorni la nostra intenzione è di farci raccontare come è andato quel corteo, quali sono stati effettivamente i punti di crescita che può aver portato. Certo, 10 giorni non è abbastanza tempo per fare una riflessione a mente un po' più fredda su quello che appunto è la crescita o i problemi che può aver creato un corteo del genere, però di sicuro già qualcosina, qualche conclusione si può trarre e questo è un primo punto. Poi magari andremo un po' più nello specifico tornando sulla questione della TRV. Sì, ciao, eccoci. Niente, insomma, appunto, come dicevi, sabato 15 è stata una giornata per Livorno molto importante perché si è visto che appunto la città c'era, in qualche maniera ha risposto, nonostante allerte meteo e tutto il resto, comunque sia la pioggia e tutto il resto, comunque sia sono scese in piazza ben 3.000 persone per appunto farsi forza assieme, diciamo, portarsi in solidarietà a tutte le vertenze, stare uniti in piazza ed esserci, quella c'era proprio, si respirava proprio questa volontà in piazza quel giorno. Un corteo che ha sfilato per le strade del centro, che lo ha bloccato per tutto il pomeriggio, un corteo appunto, dicevo, molto partecipato e anche dal tono, diciamo, molto aspro. I cori, gli slogan lanciati erano comunque sia belli sentiti, decisi, la gente in piazza proprio aveva quella, sentiva di respirare proprio l'emotività rabbiosa che si ha in certi momenti quando appunto ci sia la voglia di partecipare, di esserci, di lottare. Dicevamo un corteo bello perché è stato un corteo chiaramente molto partecipato dalla città ma soprattutto dai lavoratori. Il coordinamento ha organizzato questa mobilitazione proprio per dare come prima risposta, come primo segnale di risposta a tutte quante queste vertenze che erano esplose in città. Dicevi la TRV che è sicuramente quella più importante, però ce ne sono anche altre, c'è la raffineria Eni, ci sono i lavoratori del porto dell'Alp, quelli della Coplat, dello spazzamento delle strade, dell'agenzia Express, insomma ce ne sono diverse in città che sono esposte tutte quante assieme. E visto che i sindacati un pochino, tutte quante le organizzazioni sindacali dubitavano un pochino se muoversi o non muoversi, nel frattempo il coordinamento, che appunto ricordiamo è una realtà di lavoratori auto-organizzati che appunto hanno deciso proprio di mettersi assieme e discutere proprio per fare questo, no? Portare solidarietà alle vertenze, la divisibilità, rispondere insieme appunto ai momenti di lotta, e hanno deciso di chiamare questo corteo. È stato ben preparato, sono stati dati ben 20.000 volantini in città di 160.000 abitanti, insomma una città piccolina, e è stato bello perché appunto è stata fatta la richiesta di non portare né bandiere sindacali né bandiere di partito ed è stata anche rispettata come scelta. Infatti era un corteo molto bello, c'erano proprio gli spezzoni delle varie realtà lavorative con gli striscioni dell'RSU di ogni posto di lavoro che aveva aderito al corteo, quindi insomma era proprio un corteo di lavoratori in quel senso lì, corteo di lavoratori che in maniera auto-organizzata sono scesi in piazza, quindi quello sicuramente è il primo punto su cui ripartire, cioè la dimostrazione che quando la voglia di lottare c'è e comunque sia c'è possibilità di organizzare qualcosa, i lavoratori ci sono, non è che non ci sono, basta trovare appunto le leve giuste. In questo caso per Livorno è stato lo scoppiare di così tante vertenze e la necessità di riunire tutte assieme, un po' in modo di creare una sorta di vertenza Livorno, chiamiamola così, che è una cosa che in qualche modo ha avuto un suo seguito e in qualche modo è stata anche efficace dal portare l'attenzione proprio di tutta la città su tutta la questione lavorativa. nella precedente intervista avevamo fatto, appunto, si diceva, cioè, sono, alla fin fine si parla di più di 2000 posti di lavoro a rischio, quindi insomma sarebbe una bella botta per la città, quindi c'è stata anche molto questa presa di coscienza da parte di tutti. Ricordiamo, solo 3000 persone in piazza, ma secondo noi, che poi non l'abbiamo organizzato e tutto, sono state dovute al cattivo tempo, è stato un corteo sotto pioggia, sicché insomma corteo anche un po' pesante da un certo punto di vista. Sicuramente con il tempo bello probabilmente ce ne sarebbe state di più, almeno siamo speranzosi nel dire che ce ne sarebbero state di più. Insomma, questo è un po' il quanto. Sul corteo c'è questo da dire. Per il resto, in questi giorni comunque sia, in qualche maniera la mobilitazione non si è fermata, perché settimana scorsa c'era un nuovo incontro al MISE della TRV ed è stata una giornata di mobilitazione anche qua in solidarietà a loro. Si è fatto un corteo dalla fabbrica che sta a Stagno fino a Camp Derby, una base militare americana, per in qualche maniera per ricordare il fatto che la TRV è una multinazionale americana e quindi in qualche maniera c'è una responsabilità anche di questo tipo qua. Corteo comunque sia molto, anche quello lì abbastanza partecipato da lavoratori, ce n'era circa un 7-800, quindi contando anche che insomma giornata lavorativa di mercoledì mattina, quindi così. Nel mentre i delegati sindacali erano a Roma per incontrare appunto i padroni della TRV e il governo con insomma tutte quante le varie rappresentanze istituzionali, l'incontro anche ancora una volta si è risolto in un nulla di fatto, è stato rimandato a domani, che ci sarà probabilmente l'ultimo, perché la volontà dei padroni è quella di chiudere, non sentono proprio storie da questo punto di vista qua. A questo punto qui insomma bisognerà un po' vedere cosa riusciranno i sindacati a strappare a strappare la contropartita alla chiusura in questa maniera qua. Domani, non a caso, in realtà è anche una giornata di mobilitazione qua a Livorno, perché finalmente qualcuno si è ricordato che forse magari uno sciopero cittadino andava chiamato, e infatti alla fine è stato chiamato. Durerà soltanto 3 ore purtroppo domattina, però comunque sia nel frattempo un altro piccolo tassello viene aggiunto, quindi ora vedremo anche domattina come andrà, quale sarà la risposta dei lavoratori a questo sciopero cittadino, di cui tra le altre cose il coordinamento, lo ricordiamo, aveva fatto per primo appello proprio subito a ottobre, dopo appunto che erano scoppiate tutte queste vertenze, c'era stato fatto un immediato appello per uno sciopero cittadino la prima data possibile. È stato deciso di farne uno di 3 ore domani mattina, appunto vedremo un po' come andrà. E per il resto nulla, insomma continuiamo a seguire tutte quante le vertenze, ora alcune sono appunto in scadenza, la TR1 di queste, ma anche quella dell'altra, il 5 dicembre gli scade il contratto, quindi sicuramente ci saranno altri momenti di sicuro mobilitativi su appunto le questioni del porto, eccetera eccetera. C'è poi lo sciopero generale del 12 dicembre, quindi insomma sarà anche lì un altro appuntamento, quindi ci sarà tutta quanta la volontà, penso, immagino, da parte dei lavoratori e delle lavoratrici livornesi di partecipare in massa a quello sciopero lì, visto anche la fase che sta attraversando la città. E infatti in base a questo abbiamo anche un'assemblea pubblica cittadina, l'abbiamo chiamata per giovedì sera, in cui insomma discuteremo di tutte quante queste cose qua e di come appunto continuare a mobilitarci in merito appunto a tutte quante le vertenze e tutte quante le questioni. Senti, allora, prima di passare la parola agli altri compagni in questo studio che magari vogliono approfondire un attimo qualche aspetto, io faccio un piccolo inciso e ti faccio una domanda un po' più specifica. Piccolo inciso è, parlavi di una partecipazione di circa 3000 persone al corteo, chiaramente va vista molto in positivo, perché se si fa la proporzione di su una città come Livorno di 160-170 mila abitanti, se ci fosse la stessa percentuale di mobilitazione a Roma avremmo avuto un corteo di 50.000, però romani, non un corteo nazionale, per dirci, con i numeri del 19 ottobre del 2013, per cui mi sembra che a livello cittadino ci sia stata ottima la risposta per questa mobilitazione. Quello che ti volevo chiedere nello specifico, al di là di questa agenda di mobilitazione che tu hai descritto e mi sembra già molto fitta da ora in avanti fino a dicembre, in questi giorni immediatamente successivi al corteo proprio da un punto di vista di relazioni, di chiacchiere, confronti con i lavoratori, con le persone che si sono mobilitate, qual è il clima che si respira? Cioè c'è ancora maggior volontà di partecipazione, possiamo dire, fra virgolette, io lo so questa parola, fomento da un certo punto di vista per la lotta, lo so, spiegaci un po', perché sì, vabbè. Di sicuro c'è voglia di continuare a mobilitarsi, c'è anche quella giornata lì, in tanti lo dicevano, va bene esserci oggi ma non deve finire qua, cioè nel senso l'idea che hanno un po' tutti capito, almeno quelli che sono venuti al corteo, è stata proprio questa cosa, cioè deve essere solo ed esclusivamente un primo punto, una sorta di punto di inizio di quello che debba essere lo svilupparsi una mobilitazione un pochino più corposa, più duratura, che sappia in qualche maniera appunto difendere questo territorio dalle speculazioni dei padroni. Quindi c'è, cioè, appunto, è stato molto percepito, molto ben recepito questo discorso del punto di partenza, cioè il 15 deve essere proprio questo inizio di un cammino un po' più lungo. Chiaro, è tutto da costruire e l'onda emotiva chiaramente poi si va anche magari a sgonfiarsi poi nei giorni subito dopo successivi, però rimane molto alta l'attenzione. Infatti ora vediamo, chiaramente il momento di verifica secondo me ce l'avremo giovedì sera, la partecipazione a questa assemblea pubblica, e domani mattina lo sciopero cittadino. Quello sicuramente saranno i due momenti un pochino più di verifica della cosa. Anche se c'è da dire questa cosa, che domani mattina sullo sciopero cittadino, per come è stata presentata la piattaforma da parte dei sindacati, secondo me non sarà una giornata in cui i lavoratori parteciperanno molto volentieri, perché già le 3 ore di sciopero, che sono un po' diciamo un po' limitative, no? Cioè la sera, allora dobbiamo fare uno sciopero, dobbiamo bloccare una città, blocchiamola per davvero, cioè in piazza anche quel giorno lì negli interventi veniva proprio ribadito questo concetto, cioè blocchiamola per davvero Livorno, facciamo uno sciopero generale serio. Quindi secondo me 3 ore tanta gente gli storcerà un po' il naso, e poi anche per la piattaforma, perché chiaramente i sindacati in questo caso hanno soprattutto le segreterie sindacali, quindi non si parla di RSU in questo caso, si parla proprio della burocrazia del sindacato, hanno presentato una piattaforma in cui praticamente sembra quasi che facciano appunto la carità ai padroni, chiedendogli di venire a investire qua a Livorno, riportando il lavoro qua a Livorno. Noi come coordinamento infatti siamo usciti con un comunicato su questa questione qua, ribadendo che sì, va bene portare lavoro, ci mancherebbe, ok, ma vediamo anche a che condizioni, cioè non vogliamo lavori da 2 euro all'ora che sono ipersfruttati, sottopagati, e quindi comunque se non risolverebbero minimamente la situazione disastrosa di questo territorio. Quello ci abbiamo tenuto molto, ci teniamo molto a ribadirlo comunque, sia a sottolinearlo come questione. Però appunto, cioè, dicevo, in piazza c'era appunto questa volontà, questa voglia di continuare. Vedremo come appuntamenti, come quanto riusciamo a verificare questa cosa qua, ecco. Senti, scusami, allora, un po' mi hai anticipato nella domanda, volevo un po' chiederti una valutazione rispetto a quello che era questo sciopero di domani. Scusa, parla più forte, non ti sento. Scusami, allora, stavo dicendo, mi hai anticipato un po' nella risposta, perché ti volevo chiedere io proprio una valutazione rispetto a questa chiamata di questo sciopero di domani, e hai già risposto praticamente, però volevo anche io fare una piccola considerazione rispetto alle due parole. Io penso che quello che si sta facendo a Livorno sia un lavoro molto importante, che vede la costruzione di un percorso comune di lotta fra diverse vertenze che ci sono in una città, costruzione di un percorso di lotta che inizia soprattutto con una solidarietà che viene portata a tutte le vertenze di questa città. Quindi un pochettino ne approfittiamo del tuo intervento, magari per, se ci ricordi quali sono le vertenze in maniera un po' sintetica, le vertenze di Livorno, oltre alle TGV, che naturalmente, come hai detto tu, è stata quella che un po' ha anche è stata messa in risalto anche dall'aspetto mediatico, e sicuramente anche l'importanza della TGV nel contesto cittadino ha aiutato questo aspetto. Però se ci ricordi un po' quali sono le altre vertenze oltre alle TGV, e poi invece rispetto alle TGV, domani c'è questo incontro, leggevo proprio stamattina che domani c'è questo incontro al Mise, dove i sindacati praticamente andranno a chiedere, volevo una conferma rispetto a questo, diciamo un anno di prolungamento dei contratti di solidarietà, con appunto la giustificazione del fatto che quest'anno intanto si prolungano i contratti di solidarietà e vediamo che succede, vediamo che può succedere il prossimo anno rispetto ai lavoratori. Io penso che, come già hai fatto notare tu, in questo momento la battaglia non può essere solo quella del lavoro, perché in verità poi si deve vedere a quali condizioni di lavoro ci troviamo di fronte. Quindi il caso Electrolux in questo è stato un po' un emblema. Accettare delle condizioni di lavoro peggiorative rappresenta un po' poi quello che è il piano generale a cui stiamo assistendo. Quindi in un certo senso queste sono un po' le due domande che ti volevo fare, per farla breve. Una considerazione su questo tavolo che si andrà a affrontare domani, magari un'informazione, anche se parteciperanno, io leggevo che a Livorno, appunto tu hai detto che c'è lo sciopero, probabilmente ci saranno delle iniziative in solidarietà di questo tavolo, però ti volevo chiedere se anche qui a Roma parteciperanno i lavoratori, così magari facciamo una chiamata qui dalla radio. E poi appunto se ci fai una breve descrizione delle altre vertenze che ci stanno a Livorno. Va bene, sì, allora rispondo subito su RV. Allora, praticamente niente, sì, è confermata questa cosa qua, che la richiesta che stanno portando avanti appunto i sindacati è esattamente questa, cioè il prolungamento proprio di un anno dei contratti di solidarietà, chiedere una sorta appunto di un anno di lavoro in più fondamentalmente al padrone. Una cosa, io non mi sento a nome del coordinamento di fare una valutazione su questa richiesta qua, te la farei a nome personale, però appunto non rappresenterebbe un ragionamento collettivo. Secondo me è una risposta un po' a ribasso, cioè voglio dire, in questo momento qua dovrebbero puntare un pochino più i piedi, fare altro tipo di rivendicazioni, che ne so, chiedere i soldi di una buona uscita, perché se tanto il padrone ha deciso di andarsene, le soluzioni poi, anche guardandosi in faccia con la nuda e cruda realtà di quello che è la vita delle persone, dei lavoratori, cioè qui il discorso è quello, si vuole soldi, perché un po' è per pensare che comunque sia fra un anno che ti hanno ciucciato fino alla fine, fino all'ultima goccia praticamente di sudore che ci avevi da mettere a disposizione, poi se ne vanno senza lasciarti un cazzo. Però appunto è una riflessione che faccio proprio a livello personale, non a livello collettivo. Sull'altro discorso, comunque sia, domani no, non scenderanno i lavoratori, scenderanno soltanto, cioè scenderanno un gruppettino fra RSU, delegati sindacali, magari anche un po' qualche altro lavoratore che nel frattempo si è reso protagonista nella mobilitazione della vertenza, che quindi si è seguito tutti gli incontri, che sicuramente quindi sarà presente lì, però non faranno appunto non scenderanno in massa come hanno fatto magari per il 29 ottobre, quando c'era appunto anche quelli dell'Asta di Terni, della Marcianise e della Giavidi di Marcianise. Però comunque sia, magari appunto si vedrà un po' domani che come appunto come risposta sullo sciopero cittadino, se magari appunto saranno presenti in massa, questo lo scopriremo un po' domani. E per il resto niente, appunto la TRV è un po' appunto morta da questo punto di vista qua, perché appunto dicevo, secondo me i padroni non accetteranno mai un anno di lavoro in più, almeno che non sia proprio per l'intenzione loro di strizzarli fino alla fine. Per il resto invece tutte quante le altre vertenze qua ce ne sono tante, ci sono margini differenti, per esempio c'è la COPLAT, che sono quelli dello spazzamento delle strade, che si parla di una roba che ha a che vedere con il pubblico, perché loro comunque sia sono un servizio di appalto di una municipalizzata del comune LAMS, quindi di sicuro la controparte è il comune, è una vertenza più piccola, c'è magari anche più possibilità di vittoria, perché fondamentalmente questi lavoratori qui erano entrati in mobilitazione e sciopero perché nel nuovo bando di gara non gli veniva riconosciuto il contratto attuale, ma gli veniva dato il multiservizi, e quindi con un peggioramento sia della condizione salariale sia anche di altri diritti comunque sia contrattuali, quindi erano entrati in sciopero su quello. E c'è un braccio di ferro su questa cosa qua, perché il comune è più volte ritirato il bando, poi ripresentato in una differente maniera, poi l'ha ritirato di nuovo, quindi insomma è ancora un pochino così in tensione la cosa. Ci sono i lavoratori del porto di Alp che stanno facendo una lotta molto molto serrata, in cui praticamente hanno iniziato dopo lo sciopero per una questione un po' particolare. Cioè, il porto di Livorno è un porto dove spesso e volentieri, come anzi la maggior parte, stragrande maggior parte delle parti, i carichi di lavoro eccessivi, quando appunto arrivano tante navi, si danno in appalto a ditte di lavoro esterne che forniscono manodopera per scaricare le navi, quindi sono agenzie per il lavoro che fondamentalmente affrontano i picchi di lavoro. E spesso e volentieri però capita che questi picchi di lavoro vengano gestiti in una maniera poco, diciamo, regolamentata, cioè si lasciano magari appunto le chiamate sempre alle solite agenzie che sfruttano i lavoratori fino alla fine, incentivandoli negli straordinari o facendoli appunto svolgere mansioni che non sono le loro, per cui non sono addestrati, quindi c'è anche un rischio sulla sicurezza, e loro in realtà chiedevano appunto il rispetto di questa questione qua nel ruolo, nel loro, diciamo, rinnovo contrattuale, perché Alp ha un ramo di un'agenzia che è fallita, che però è rimasta, diciamo, in vita appunto praticamente affittare da un'altra agenzia di lavoro, e appunto ora scade però questo contratto d'affitto, e loro appunto dicono: quale sarà il nostro destino, quale sarà la nostra sorte? Oltretutto abbiamo lottato per tutti questi anni per chiedere appunto il rispetto di queste condizioni, quale sarà la nostra sorte? Non loro fondamentalmente non vogliono che si accaniscano contro di loro, perché saranno gli unici che facciano una lotta in senso magari proprio anche più semplice o politica all'interno del posto di lavoro. Quindi chiaramente c'è tutta quanta questa cosa qua. Hanno fatto 2 settimane di sciopero, che scioperavano 2 ore a fine turno tutti i giorni, quindi insomma è un po' che sta andando avanti. Di sicuro il 5 dicembre scade questo contratto, quindi a breve di sicuro reinizieranno anche con un po' di azioni di mobilitazione. Avevano fatto diversi presidi sotto l'autorità portuale, al comune, alla compagnia dei lavoratori, quindi insomma si erano mossi in diversi sensi. C'è poi comunque sia l'agenzia Espressi, che è un'altra vertenza che sta scoppiando, ramo anche lì chiuso delle Poste Italiane, ha deciso di portare il servizio tutto quanto a Torino, quindi a questi lavoratori, sono una trentina, gli hanno detto: o ve ne andate a Torino o perdete il posto di lavoro. E hanno detto: vabbè, facciamo che entriamo in sciopero e vediamo un po' come funziona la cosa. Quindi c'è questa cosa qui. C'è la più grossa in realtà delle vertenze, l'Eni, la raffineria Eni. Si parla di 1200 posti di lavoro fra indotto e dipendenti diretti della raffineria. C'è la volontà da parte del governo di chiudere l'impianto, e da parte di Eni, da parte del governo di chiudere l'impianto. È una chiusura che riguarda anche altri impianti, anche quello di Gela e di Taranto, se non erro. Anche lì, essendo poi una questione che riguarda molto il pubblico, perché il 30% di Eni comunque sia ancora in mano al governo, c'è di mezzo comunque sia un protagonismo anche da parte di Renzi, che in questo caso qua va sottolineato. Bisognerà capire un pochino come fare. All'ultimo incontro che avevano avuto a Roma il 23 di ottobre, il Ministero dello Sviluppo Economico aveva stabilito di fare alcuni incontri per diciamo valutare tutti quanti i punti, tutte quante le questioni, tutte quante le convenienze sul sito di Livorno e sugli altri siti, capire quale tenere aperto, quale riconvertire in semplice impianto di deposito. Quindi stanno facendo questi incontri, ma a breve, a fine del mese, avranno si capire anche lì quale sarà il destino di tutti quanti questi lavoratori qui. Però non è roseo, perché i rumor su questa questione qua sono la vendita dell'impianto a uno straniero, che di sicuro non manterrà mai tutta la manodopera, non manterrà mai tutti i livelli salariali, quindi si andrà probabilmente a un peggioramento. Quindi insomma c'è anche lì un po' un sentire, però appunto sono tutte quante cose che scoppieranno fra qualche settimana. Senti, scusami, quindi, scusami se ti interrompo. Vabbè, una piccola considerazione: la questione che accennavi della raffineria, delle raffinerie e del tentativo di smantellamento del sistema, e con la chiusura e diciamo la perdita di tanti posti di lavoro, è un argomento che va affrontato. Magari da qui può venire l'input a fare una trasmissione particolare. Tu hai ricordato Livorno, Gela e Taranto, evidentemente può essere un'occasione per provare a parlare di questa situazione in maniera specifica. Io un po' ti ho fatto questa domanda per farci un quadro della questione di Livorno, perché penso che sia molto importante l'esperienza di Livorno, che vedo un coordinamento di lavoratori auto-organizzato che prova a e che supporta concretamente tutte le vertenze che ci sono aperte in questa città, sviluppando una solidarietà attiva fra tutti i lavoratori in lotta. Penso che sia un'esperienza molto importante e di cui appunto bisogna parlare e provare che sia la strada giusta da provare a percorrere. Sì, quindi sicuramente ci fa sempre piacere ascoltare Livorno e ci scusiamo un po' per i tempi stretti che ci abbiamo. Ti ringraziamo perché sei stato chiarissimo e ci hai dato tanti spunti di riflessione su cui continuare. Vabbè, grazie a voi. Sicuramente ci risentiremo nelle prossime settimane, anche magari sulla questione delle raffinerie, che può essere un argomento interessante da approfondire. Sì, anche perché insomma lì c'è proprio una bella questione, cioè entra anche un fatto in gioco, una questione ambientale, quindi insomma esatto. È un bello argomento spinoso. Va bene, ti ringrazio ancora e ti saluto. Va bene, grazie ciao, a voi. Ciao. Ciao, buona giornata. Alla mia età sono già uomo, nel mio cuore c'è rancore, non perdono, nel mio cuore non dimentico chi sono, chi è il buono, chi è il cattivo, io resisto e sopravvivo, la pace in questa terra è solo un sogno che hanno ucciso, lo porto inciso come il segno della logica del piombo, il rombo dei bulldozer nel mio campo, la ferocia del più forte non dà scampo, ho visto coi miei occhi cosa fa una guerra lampo, al banco da imputato il mio popolo è sbagliato, un muro di cemento impone un vivere forzato, blindato in questo niente, schiettizzato da occidente, la Palestina è lacera ma è salda al continente, io arabo ribelle, odi la mia pelle, è una storia millenaria come il cielo e le sue stelle, nelle celle prigionieri di Israele, nelle strade con le pietre e le bandiere, contro l'arroganza del potere, che ne sai della mia guerra, che ne sai della mia terra, 10 anni sono un uomo e t'ho imparato a stare in sella, con il cuore che è un tamburo, con le pietre per la strada, vivo Palestina, viva, viva l'intifada, che ne sai della mia guerra, che ne sai della mia terra, 10 anni sono un uomo e t'ho imparato a stare in sella, con il cuore che è un tamburo, con le pietre per la strada, viva Palestina, viva, viva l'intifada, Green Padre, pagine leggiadre, la storia del deserto è un libro aperto a tinte scabre, non si apre questo libro trascurando gli antefatti, dai misfatti del capitolo orientale, sin dai tempi dell'impero coloniale, il vecchio continente è il mappamondo in mano, se l'America è il gendarme, noi banditi del suo piano, il greggio è come il grano, cristiano musulmano, la legge del denaro è il solo codice sovrano, arriva del Giordano, terra intrisa del mio sangue, a far la mia coscienza, l'innocenza che si infrange, non piange la mia infanzia, la mia ansia non ti tange, dall'angolo del mondo venerato come il Gange, ne sai della mia guerra. Sì, allora torniamo in studio qui con Corrispondenza Operaia per parlare questa volta di una vertenza di Roma, qui della città di Roma, una vertenza della quale già a questi microfoni ne abbiamo parlato più volte, ed è proprio il caso della Ground Care, azienda comunque che lavora nell'aeroporto di Fiumicino, che gestisce comunque il personale di terra. Abbiamo un lavoratore in linea, non so se ci senti. Buongiorno, sono ciao. Marco, dipendente Ground Care e delegato Cubo Trasporti, buongiorno a voi. Ciao, buongiorno. Allora Marco, magari, non lo so, puoi farci un po' il punto della situazione, così giusto per capire di cosa parliamo e magari ci parli degli ultimi sviluppi della vostra vertenza. Guarda, allora, ci eravamo lasciati l'altro giorno che c'era stata questa, diciamo, assemblea volante col sindaco Marino all'aeroporto di Fiumicino dopo la mobilitazione dei lavoratori che erano intervenuti in una conferenza stampa a cui appunto stava partecipando il sindaco di Roma Capitale con Aeroporti di Roma e i giornalisti. A seguito di questa assemblea, in cui era stato fatto con forza presente la situazione drammatica di questa società fallita a maggio, che vede a rischio i 900 posti di lavoro dei lavoratori che sono impiegati in essa, e il sindaco si era dichiarato disponibile a fare una convocazione che è stata poi effettuata sabato pomeriggio a Campidoglio, dove sono stati convocati tutte le organizzazioni sindacali, comprese la CUB Trasporti, e c'era una delegazione di lavoratori presenti in piazza. Quindi l'ultima novità appunto è questo incontro che c'è stato sabato, a cui abbiamo partecipato anche noi, e in cui nuovamente è stata fatta da più parti un'analisi di quello che è la situazione generale, oltre alla situazione particolare della società, situazione generale che possiamo tranquillamente indicare come gli ultimi frutti avvelenati della liberalizzazione decisa in sede europea dalle delibere sulla liberalizzazione appunto dei servizi di assistenza aeroportuale chiamati handling, perché noi proveniamo dal quel monopolio che era gli aeroporti di Roma, che hanno deciso appunto attraverso processi di liberalizzazione e terziarizzazione di dare via i servizi che esercitavano direttamente. Questo ha portato un'enorme frammentazione societaria, tra l'altro è stata applicata questa liberalizzazione in maniera molto più pesante rispetto alle stesse delibere europee, perché a Roma, unico caso in Europa, nel settore dell'handling ci sono ben 6 operatori, mentre in Europa massimo ce ne sono 2, e tra l'altro oltre i cosiddetti grossi handler, cioè full handler, cioè società che fanno tutte le categorie di servizi a terra, ci sono un'altra 50 di società che fanno solo uno o alcuni servizi aeroportuali. Questo ha portato a una enorme frammentazione aziendale, da cui ne è derivata una frammentazione contrattuale, e quindi la possibilità delle aziende di giocare questa concorrenza tra numerosissimi operatori, tutta sulla pelle dei salari, dei diritti e dei livelli occupazionali dei lavoratori. Questa società, noi la gran parte dei dipendenti eravamo ex aeroporti di Roma, che poi passarono in ADR Handling, che poi passarono in Flycare e poi furono acquistati a dicembre 2012 da questo gruppo, che contemporaneamente alla nostra acquisizione falliva con la sua Globe Ground Milano, a Milano, e ci acquisiva quindi una società che era più grande del gruppo che ci ha acquisito. Già stavano in crisi, infatti dopo pochi mesi fu dichiarato concordato preventivo, fino ad arrivare a maggio scorso fallimento. Quindi diciamo che il quadro generale è questo, si è di fatto nuovamente questo tipo di analisi al tavolo, su cui adesso sembrano essere tutti d'accordo e tutti concordare nel fatto che bisogna registrare appunto il fallimento di queste politiche di liberalizzazione del settore, senza alcun vincolo e alcuna garanzia che tra l'altro era possibile porre in essere anche stante le delibere europee sulla liberalizzazione, ma che in Italia non sono state applicate. E quindi questa è l'ultima vertenza di una serie innumerevole di vertenze che vedono i lavoratori del trasporto aereo fare fronte a circa 15.000 già lavoratori interessati da cassa integrazione e mobilità a fronte, ed è questo la cosa su cui il sindaco Marino ha espresso non so quanta sincera stupore, a fronte di indici di traffico che nello specifico sull'aeroporto di Fiumicino sono tutti in grossissima espansione, a fronte di un piano di investimento per lo sviluppo dell'aeroporto di Fiumicino come hub intercontinentale che vede appunto grossissimi investimenti futuri sia da parte dei soggetti privati ma anche degli enti pubblici. E quindi Marino diciamo che partiva questo incontro da questa sua necessità di capire, diciamo che era un incontro a sfondo conoscitivo, come era possibile che si era di fronte a questa gravissima crisi occupazionale, di cui appunto la Grand Care è solo l'ultima di una serie innumerevoli di vertenze che stanno esplodendo in queste settimane, in questi giorni, a fronte appunto di tutti questi proclami fatti da Aeroporti di Roma, che è la società che è rimasta come unicamente gestore delle infrastrutture aeroportuali, rispetto a un magnifico e progressivo sviluppo di questo aeroporto. Da questa contraddizione sul livello generale si è passati poi ad analizzare la questione particolare appunto è quello che vi raccontavo di questa società che è stata acquisita in maniera molto oscura da questo gruppo, che aveva necessità probabilmente solo di scaricare la sua società e i suoi lavoratori in una società che poi già aveva 4 anni di cassa integrazione accesa, e quindi come noi abbiamo da subito dichiarato come Cube Trasporti si trattava di un fallimento pilotato, che poi spesso è ciò che accade nelle aziende del settore, anche la storia dell'Alitalia ce lo insegna, per poter arrivare a una condizione in cui i lavoratori sono sotto la mannaia del ricatto di accettare centinaia di esuberi, come li chiamano, e per chi resta parimenti le condizioni che si prospettano anche per noi della Grand Care, grossissimi tagli salariali per chi dovrebbe rimanere in azienda. Sì, appunto, a me... Scusa, dimmi. No, a me interessava appunto sottolineare, diciamo, questo aspetto che comunque, come hai ben ribadito tu e comunque come abbiamo ascoltato anche le mie, diciamo, dal vostro intervento la settimana scorsa qui in radio, diciamo, è tutt'altro che in crisi comunque il settore degli aeroporti, comunque del, diciamo, del, dei viaggi aerei fondamentalmente. Anzi, vi ricordavi tu la scorsa settimana che l'aeroporto di Fiumicino ha festeggiato, se non sbaglio, il milionesimo 2 milionesimo passeggero più rispetto all'altro anno, e dati ASSO aeroporti, quindi stiamo parlando non dei dati del centro studi della CUB o di qualche altro sindacalismo di base conflittuale, ma dati proprio dei siti, dei soggetti tra virgolette che possiamo considerare controparti. E la cosa che a noi ha sorpreso parecchio, che nel periodo della crisi mondiale devastante di cui parliamo tutti dal 2008 adesso, il traffico aereo in Italia è aumentato a livello passeggeri del 10% e a livello di merci del 16% nel quinquennio 2009-2013. Quindi parliamo di un trend di traffico che è veramente, come dire, in totale controtendenza contro tutti gli altri dati macro e microeconomici con cui siamo costretti a fare fronte quotidianamente in tutti i settori dell'economia di questo paese e non solo. Sì, io ho un'altra magari riflessione, un'altra domanda da farti, perché comunque, diciamo, il settore intero in questi anni, in questi ultimi tempi, comunque sta vedendo partecipi in molte vertenze, sta vedendo comunque, partiamo dalla vertenza all'Italia, ma comunque, diciamo, il settore aeroportuale, ci sono molte vertenze e molte lotte aperte dai lavoratori. Questo, mi interesserebbe comunque sapere un po', diciamo, il rapporto che comunque la Ground Care e voi lavoratori state, diciamo, instaurando con le altre vertenze, se ce ne sono aperte nell'aeroporto di Fiumicino. Allora, l'aeroporto di Fiumicino, come tu ben dicevi, ha visto nelle ultime settimane la maturazione di un ennesimo fallimento dell'Alitalia con l'entrata dell'Etihad e altri 2200 lavoratori interessati da processi di espulsione perché dichiarati esuberi, quindi licenziamento, mobilità e quant'altro accade in queste situazioni. C'è la situazione della Meridiana che sta esplodendo con 1600 esuberi dichiarati anche in questo caso. C'è stata nel tempo la questione dei lavoratori duty free anch'essi interessati da processi di espulsione, e c'è stata la questione dell'Argolo, 70 lavoratori che svolgevano un servizio per l'Alitalia che poi, quando decise di reinternalizzare il servizio, ha pensato bellamente, come spesso fa, di non riassorbire il personale, quindi questi lavoratori sono stati scaricati dall'Alitalia. Quindi quotidianamente siamo costretti ad affrontare vertenze che vengono impostate dalle controparti sempre a partire da una presunta crisi che comunque porta a dei fallimenti più o meno reali, più o meno pilotati, e che purtroppo vedono i sindacati cosiddetti firmatari, cioè CGL, CISL, UGL, quasi sempre accettare questa impostazione, non cercare assolutamente di ribaltarla, non cercare di porre appunto l'accento sul fatto che non è possibile. Ha detto anche il sindaco Marino, ti ripeto, con credo sincero stupore, com'è possibile che da una parte l'aeroporto macini milioni di passeggeri, preveda di macinarli addirittura alla fine del piano di sviluppo 100 milioni annui, e quindi produce milioni e miliardi di reddito e profitto, d'altra parte questa enorme macchina espelle lavoratori. La parola magica, gli abbiamo cercato di far capire, credo che in parte ci siamo riusciti, le due parole magiche sono liberalizzazione da una parte e precarizzazione dall'altra, perché stante appunto questi indici di traffico non è che non c'è lavoro da svolgere, non ci sono passeggeri, aeromobili, merci, bagagli da assistere. Evidentemente questo bisogno di manodopera c'è, continua e sarà sempre più alto, ma c'è semplicemente attraverso questa liberalizzazione, frammentazione, divisione dei lavoratori e precarizzazione, una sostituzione dei lavoratori cosiddetti garantiti, che qui hanno degli stipendi che possiamo dire notevolmente superiori a quelli che sono costretti ad accettare i giovani precari che entrano in aeroporto, e quindi c'è in atto questo grossissimo meccanismo di sostituzione. Gli è stato anche ricordato che la stessa Alitalia, che se vogliamo è quella che finora ha avuto la ribalta mediatica maggiore rispetto a tutte le altre vertenze, perché era un'ex compagnia di bandiera, perché comunque storicamente ha impiegato sempre il maggior numero dei dipendenti del settore del trasporto aereo in Italia, per tutta una serie di questioni anche, se vogliamo, di tipo politico e giornalistico. La stessa Alitalia, nonostante avesse migliaia di lavoratori mandati a casa circa 10.000 nel 2008 con la famosa cassa integrazione, col famoso piano Fenice che affidò la compagnia di bandiera pubblica ai capitani coraggiosi come venirono indicati allora, la stessa Alitalia nel contempo stipulava tra i 7 e 8.000 contratti a termine precari con giovani neoassunti. Questo è il meccanismo che è comune a tutte le società del settore, perché tutte le società del settore che hanno attinto e stanno attingendo a cassa integrazione e mobilità per crisi più o meno reali, più o meno presunte, perché fallimenti più o meno quilotati, accedono tranquillamente alla cassa integrazione, che non serve assolutamente per sostenere i livelli occupazionali in un'ottica di rilancio e quindi di garantire i livelli occupazionali, ma servono solamente, come diciamo noi, come banco ma tale aziende per pagare le proprie ristrutturazioni e mandare via lavoratori che sono ancora inquadrati in vecchi livelli contrattuali per poter sostituirli con lavoratori precari, con contratti più bassi, con meno diritti, più ricattabili e quindi più disposti purtroppo ad accettare e a subire, costretti più che disposti ad accettare questi indici sempre maggiori di sfruttamento. Sì, io ho un'unica cosa da chiederti, magari poi dopo passo la parola un attimo ai compagni qui in studio, perché comunque diciamo tutto l'interesse che c'è stato in questi giorni da parte istituzionale, tu parlavi del sindaco Marino, volevo sapere se ha prodotto qualcosa effettivamente, perché io ho davanti un'agenzia, non so quanto sia attendibile, che comunque di questa mattina, che dice che la regione ha espresso comunque un'attenzione, che comunque terrà un'attenzione particolare verso la vertenza ground care e che convocherà comunque le parti il 27 novembre, diciamo. Allora, le novità sono appunto questo incontro che c'è stato sabato, la presenza del sindaco Marino, del vice sindaco di Fiumicino, dell'assessore Improda, che credo sia l'assessore alla mobilità, del parlamentare del PD Miccoli della commissione del Parlamento sul lavoro, ed è stato prodotto alla fine un comunicato congiunto tra il sindaco, firmato dal sindaco Marino e dal sindaco Montino di Fiumicino, in cui si prende atto in maniera abbastanza, come dire, secondo noi veritiera, della profonda crisi che attanaglia la società Ground Care, ma tutto il comparto aeroportuale del sistema aeroportuale romano, con migliaia di licenziamenti, cassa integrazione e mobilità, delle evidenti ricadute che soffrono questi due enti locali, visto che quasi tutti sono cittadini di Roma, di Fiumicino, delle zone circostanti, e in termini, come dire, di prospettiva indicano, auspicano, cioè questa indicazione che si faranno promotori di un tavolo interistituzionale che affronti la questione di come garantire i livelli occupazionali e la costituzione di un eventuale bacino per la ricollocazione dei lavoratori. A questo punto noi come Cubo Trasporti, pur riconoscendo il merito al sindaco di essere interessato fattivamente alla vicenda, di avere comunque convocato, e non era cosa scontata, non solo CGL, CISL, UGL, ma anche la Cubo Trasporti al tavolo e una delegazione di lavoratori, abbiamo ritenuto che fosse, come dire, rispetto alla drammaticità della vicenda, che rischia di, come dire, concludersi veramente con esiti pesantissimi nei prossimi giorni, abbiamo chiesto che ci fosse qualcosa di più concreto, nel senso che il tavolo interistituzionale è una cosa che chiediamo noi da anni e su cui siamo assolutamente d'accordo, perché se tutti convengono che il problema è di sistema, allora il problema è che il sistema deve vedere tutti i soggetti interessati ad un tavolo che si mettono d'accordo di come risistemarlo, affinché soprattutto questa enorme contraddizione tra indici di traffico in aumento e parimenti, migliaia di licenziamenti che aumentano sempre di più, venga affrontato da chi ha responsabilità diretta. Questa cosa siamo assolutamente d'accordo, tant'è che anche lo richiedemmo anche noi quando fummo convocati a dicembre scorso al Ministero dei Trasporti, dove dissero allora che avrebbero in giro di pochi mesi risistemato tutto il sistema del trasporto aereo italiano, e non fu fatto poi assolutamente nulla, non fu fatta neanche una successiva riunione di questo tavolo. Quindi ci siamo detti d'accordo che il livello debba essere quello e il livello anche delle questioni debbano essere quelli, ma che la soluzione della vertenza Ground Care necessitava qualcosa di più concreto e di immediato che l'auspicio di un tavolo che è tutto da venire. Quindi noi avevamo proposto, abbiamo proposto al tavolo che ci fosse una presa di posizione di tutti i convenuti a quell'incontro di sabato, affinché si richiedesse la proroga dell'esercizio provvisorio, perché la società è fallita e continua operativamente in virtù dell'esercizio provvisorio deciso dal Tribunale Fallimentare di Civitavecchia, che è in scadenza al 30 ottobre, credo sia stato prorogato al 31 dicembre, data entro la quale il curatore ha deciso che deve essere stipulato questo contratto di acquisto con questa società, che il curatore ha definito quella che ha fatto la proposta migliore, che è la GH Italia. Quindi entro il 31 dicembre noi abbiamo chiesto che venisse prorogato questo esercizio provvisorio, che non venisse revocata la licenza, che pare che sia in scadenza i primi giorni di dicembre, la licenza di esercitare del servizio di assistenza a terra alla società Gran Pietra, visto anche che CGL, CISL e UGL hanno firmato a maggio una nuova tornata di cassa integrazione per i lavoratori Gran Pietra per un anno, ulteriore anno, quindi in scadenza a maggio 2015. Quindi le eventuali problematiche inerenti all'esubero di personale potrebbero essere, come dire, supportate da questa cassa integrazione. Questo per evitare che, mentre si discute tutti quanti convenendo sulla necessità di rimettere mano al sistema aeroportuale italiano e in generale al trasporto aereo, perché per tutto quello che ci siamo detti prima, le aziende e i sindacati trattanti continuano a sottoscrivere accordi che comunque vedono espulsione di centinaia di migliaia di lavoratori e pesantissimi tagli al salario. Da noi si parla, per la Gran Care, circa 900 lavoratori di 350 lavoratori in esubero, e tagli salariali tra il 20 e il 25% dello stipendio. Quindi parliamo di cose veramente pesantissime. Esatto, senti, giusto per andare un po' a conclusione di questa corrispondenza, che è stata molto utile e che è stata molto chiara, volevo un po' riprendere e fare una considerazione conclusiva proprio questo passaggio, dal racconto dell'avvertenza della Gran Care dei lavoratori, ma anche dell'analisi generale rispetto alla situazione degli aeroporti, emerge chiaramente come siamo di fronte a un attacco al mondo del lavoro, un attacco ai lavoratori, che poi si concretizza con la scusa della crisi da un lato e con la complicità in tanti casi dei sindacati confederali, si concretizza poi col passaggio dell'espulsione di una parte di quei lavoratori che continuano ad avere, come giustamente hai ricordato tu, delle tutele contrattuali, per poi andare pian piano a sostituirli con dei lavoratori che poi legalmente avranno dei contratti peggiorativi, sia in termini salariali ma anche in termini di condizioni di lavoro. È un po', diciamo, che in questa trasmissione noi ci ritroviamo di fronte a raccontare sempre tante vertenze che poi di lavoratori che poi hanno poi come cuore questo aspetto, cioè con la scusa della crisi, perché poi le aziende, come è stato ricordato anche in questo caso, continuano a fare profitti e anzi in questo caso specifico li aumentano, però con la scusa della crisi si attua un attacco al mondo del lavoro. Questo mi sembra che anche dalle due parole è emerso chiaramente come poi sia questo il tentativo. Io un po' volevo riprendere in conclusione questo piccolo ragionamento e farti una domanda: se ci sono prossime iniziative di mobilitazione, sia voi come sindacato, ma sia più in generale tutti i lavoratori, anche rispetto a come vi porrete rispetto allo sciopero della CGL programmato per il 12. Allora, guarda, sinceramente, parto dall'ultima cosa, il problema dello sciopero del 12 non ce lo siamo ancora posti in termini di riflessione e dibattito, perché, ti ripeto, siamo, come dire, quotidianamente presi dall'accelerazione di tutte queste vertenze che, tra l'altro, ci vedono personalmente interessati dall'esito che avranno, perché il nostro compagno Antonio Amoroso è stato licenziato dall'Alitalia all'ultima tornata di licenziamenti, e noi anche stiamo rischiando di far parte di questi 350 esuberi, quindi ancora non abbiamo avuto modo di riflettere su questa questione dello sciopero della CGL. Le prossime iniziative sono questo incontro che c'è alla regione il 27 alle ore 15, sembra, tra regione, enti locali, credo anche aeroporti Roma, ENAC, non so se le aziende saranno presenti, sia la fallita che la futuribile acquirente, i sindacati, a cui però la Cuba Trasporti non è stata convocata, come purtroppo è di prassi. Quindi stiamo cercando in questi giorni di essere anche noi coinvolti in questo incontro, e comunque abbiamo chiesto stamattina autorizzazione per un sit-in per convogliare i lavoratori in quella giornata sotto la regione, perché abbiano la possibilità di far sentire direttamente la loro preoccupazione, la loro rabbia e la loro indignazione. Per quanto riguarda lo strumento della crisi, ma storicamente è stato sempre così, cioè io mi, da quando penso di avere un po' del barlume di consapevolezza e ragione, c'è sempre stata una crisi economica locale, nazionale, europea, mondiale a giustificare alcuni passaggi. Sappiamo benissimo che per quanto riguarda le aziende, gli imprenditori e chi purtroppo sembra sostenerli, la crisi è sempre una grossissima opportunità. Questa cosa è, come dire, smascherare da un certo punto di vista questa impostazione tra virgolette tutta ideologica nel settore del trasporto aereo è un'operazione che secondo noi dovrebbe essere abbastanza facile fare, e ti ripeto, quando poi hai possibilità di parlare dei dati reali ti rendi conto che gli interlocutori balbettano, perché effettivamente nel settore del trasporto aereo questa cosa del pretesto della crisi è veramente come dire manifesto, perché se l'Etihad viene a Roma e entra nell'Alitalia, se l'Etihad vuole entrare nel pacchetto azionario di Aeroporti di Roma, come tanti altri investitori che stanno per nuovamente cercare di spartirsi la torta del settore dell'assistenza a terra e del settore aeroportuale in generale, evidentemente questo settore fa gola e quindi le possibilità di redditività e profitto sono enormi, e quindi ciò non giustifica affatto un'impostazione data a questa questione a partire da una fantomatica crisi che non esiste. È chiaro che l'interesse è utilizzare questa forma di pressione mediatica da una parte e poi anche psicologica nei confronti degli individuali, dei lavoratori, per poter, come dire, riuscire appunto a continuare ad impostare il discorso con questo ordine del discorso che noi stiamo cercando in tutti i modi assolutamente di contrastare, a partire, ti ripeto, dai dati reali che è facile poi reperire sui siti di Asso Aeroporti, del Ministero dei Trasporti, di Aeroporti di Roma e bla bla bla. C'è tutta la questione della quarta pista, c'è un grossissimo piano di speculazione secondo noi anche rispetto poi alla zona di Maccarese, che è una zona agricola di importanza rilevante a livello addirittura europeo, dove dovrebbe essere costruita secondo il piano di Aeroporti di Roma questa quarta pista, con tutti gli annessi e connessi di una nuova aerostazione, quindi con tutto quello che significa anche in volumetria di cementificazione di quella zona. Va bene. Quindi l'appuntamento è per giovedì prossimo. Okay. Giovedì prossimo alle ore, puoi ricordarlo? Il 27 alle ore 15 alla regione Lazio, quella posta sulla Cristoforo Colombo, ci dovrebbe essere questo incontro, c'è questo incontro tra regione e soggetti interessati alle organizzazioni sindacali, a cui la CUP Trasporti al momento ancora non è stata convocata, e noi comunque abbiamo dato indicazione, abbiamo chiesto autorizzazione, daremo indicazione ai lavoratori di essere presenti lì per un sit-in. Va bene, allora ti ringraziamo, ti invitiamo a restare in contatto con la radio per eventuali aggiornamenti, ma anche per questa giornata di giovedì e dell'eventuale sit-in che proverete a organizzare. E ti ringraziamo perché sei stato molto chiaro nella descrizione un po' degli eventi, nell'analisi che hai fatta. Ne approfittiamo, visto che l'hai ricordato, per mandare anche noi un saluto ad Antonio, il lavoratore che è stato licenziato e che noi abbiamo sentito più volte per farci raccontare la situazione di Alitalia. Mandiamo la nostra solidarietà e insomma. Vorrei solo aggiungere una cosa, perché sentivo anche altre questioni, spesso sento anche altre questioni del mondo del lavoro, ed è la difficoltà da parte del sindacalismo di base o di chi comunque si oppone in termini di percorsi reali a questi processi di stimolare, sollecitare, organizzare una risposta dei lavoratori di livello adeguato a quello che sta accadendo. Qui c'è tutto il discorso da aprire poi della democrazia sindacale, cioè che in una unità produttiva così complessa come un aeroporto non avere la possibilità di tutta una serie di strumenti di agibilità politico-sindacale, vi rendete conto che significa riuscire a ricomporre lavoratori su interessi comuni dopo che questi sono stati frammentati in decine di aziende, in contratti diversi, su un territorio vasto e così complesso come è un aeroporto intercontinentale. Questo però è un livello di riflessione che sicuramente noi ci dobbiamo assumere, perché, vi ripeto, non è possibile che con la scusa di crisi più o meno reali debba far fronte solo a massacri sociali da tutti i punti di vista, perché poi qui, scusate se finisco, il problema non sono solo i salari, non sono solo i diritti, non è solo l'occupazione, è anche una questione di sicurezza, perché noi per esempio un anno fa è morto un nostro collega di un'altra società mentre faceva assistenza ad un aeromobile, e quindi significa che in una in un processo produttivo così complesso come quello dell'assistenza aeroportuale c'è anche questa questione in ballo, e che abbiamo sollevato anche quando ci è capitato di parlarne sabato scorso. Sì, no, hai fatto bene a ricordare anche quest'ultimo aspetto, è importante perché magari in questi tempi di crisi dove il lavoro manca altre cose vengono ricordate un po' meno e sono invece molto importanti. Sì, perché semplicemente la carenza d'organico significa che non si è magari nel numero sufficiente per avere un livello di servizio e di qualità di sicurezza tale per cui purtroppo è probabile che i lavoratori rischino di farsi male, e purtroppo è accaduto anche di peggio. L'invito quindi a continuare un po' questa riflessione, questo confronto che appunto va continuato fra compagni e fra lavoratori, quindi l'invito a risentirci nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, per qualsiasi iniziativa di mobilitazione i nostri microfoni sono sempre aperti. Ti ringrazio ancora nuovamente per la corrispondenza che ci hai fatto, sei stato molto chiaro e ci hai dato ottimi spunti di riflessione anche a noi qua in studio. Ringrazio a voi e ci risentiamo giovedì se c'è qualche novità. Perfetto. Alla luce di questo incontro, di questo sit-in. Ok, perfetto. Grazie, buon lavoro. Ciao. Benissimo, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Corrispondenze Operaie. Prima di salutarci e di darci appuntamento a lunedì prossimo, un ultimo annuncio per un appuntamento prossimo. Sì, allora il 14 di dicembre, iniziamo già a annunciarlo, ci sarà un'iniziativa in sostegno della Cassa di Resistenza dei lavoratori della logistica, un'iniziativa che vedrà la partecipazione di Ascanio Celestini e Tête de Bois, e sarà all'ex SNIA, mi ripeto, il 15 di dicembre alle ore 14? No. Scusate, il 14 dicembre alle ore 16 alla SNIA, iniziativa con Ascanio Celestini in sostegno della Cassa di Resistenza dei lavoratori della logistica. Non mancherà opportunità di rilanciare questo appuntamento nelle prossime settimane, per questo concludiamo questa puntata di Corrispondenze Operaie anche noi in estremo ritardo e lasciamo spazio al giornale radio. Buona giornata e buon lunedì a tutti e tutte. Scappano tutti ma nessuno se ne va da qua. Che succede? Che cazzo succede?